Zolt. Fulminati in azienda. NCS, NCS, non ci siamo. In questa azienda non riusciamo a gestire nel dettaglio l'andamento della cassa, non è accettabile. Il problema, secondo noi consulenti, è che non riuscite a gestire nel dettaglio l'andamento della cassa della vostra azienda. Ma bravo consulente, ma vedi che anche tu la pensi come me. Ma sai che mi togli sempre le parole di bocca. E allora dice il motivo, consulente, eh? Te lo dico io il motivo, centrifuga. È che non abbiamo un software intelligente che ci permetta di calcolare in modo analitico i flussi in entrata e in uscita. Infatti stavo proprio per dirlo. Guarda, ce l'aveva proprio sulla punta della lingua. E di chi è la colpa? Di chi è? E di quelli dell'IT che non hanno saputo neanche comprare un software decente per gestire la cassa. Ma com'è sta cosa che ogni volta che c'è un problema ci stanno di mezzo sempre quelli dell'information technology? Te lo dico io il perché, perché quelli dell'IT non vogliono essere governati. E allora sai cosa facciamo noi? Li licenziamo tutti. Anzi, metà, così quelli che restano lo capiscono e mi obbediscono. Sì, facciamo un licenziamento selettivo, solo metà. Ma ha deciso di fare un'altra guerra anche ai sistemi informativi. E ste guerre sono come guerre puniche, non finiscono mai. Centrifuga, sarà una guerra lampo, sarà un blitzkrieg. Entriamo nel campo nemico, ne facciamo fuori la metà e poi gli altri mi si arrendono con le bandiere bianche alzate. Sarà, ma quelle dell'IT sono resistenti. Prima da rendersi ed esterminano il server e te bucano la rete, altro che beach kitch. Ma non è possibile, così mi rovinano l'evento con gli operai. Ma cosa c'è? Ma eravamo nel pieno della sfilata di tutti da operaio, firmato da grandi stilisti, una novità assoluta nel panorama della comunicazione aziendale. Improvvisamente si è spento il megaschermo digitale. Ma quale megaschermo, scusa? Il megaschermo con le foto digitali degli operai che come Beckham sfoggiano la mutanda dell'operaio, che rialza la motivation. Sono stati quelli dell'IT, hanno intercettato le mail che dice li volevano licenziare e hanno staccato per protesta server e tutte le connessioni digitali. Ma non si può lavorare. Ma allora, così. Ma chi decide in questa azienda? Io che sono il direttore generale o quelli dell'IT? Adesso sai che cosa faccio? Scateno contro l'IT il nostro super consulente Paragone. Che paura, se terrorizzano. Mi faccio mettere su un mega progetto di un mega software di quelli tedeschi che ti controllano l'andamento della cassa, le entrate e le uscite. Li faccio lavorare giorno e notte, non gli do un attimo di tregua, li sdereno questi analisi. Marco, ma sei sicuro che poi sto mega softwareone ci serve? Ma certo che serve, a far capire chi comanda. Allora, consulenza, abbiamo comunicato all'IT cosa li aspetta? Certo, abbiamo organizzato un kick-off con 860 slide in cui abbiamo spiegato loro il progetto in ogni dettaglio. E dimmi un po', Paragone, hai visto il terrore nei loro occhi? Hanno capito chi comanda? Veramente, quelli dell'IT erano felici, Ma come felici? Hanno detto che finalmente l'azienda li fa lavorare su un progetto veramente interessante e che ci lavoreranno anche la notte. E certo, de notte col computer se eccitano. Loro ci mettono sul softwareone, noi avremo un sistema perfetto che controlla la cassa in ogni dettaglio e direi a questo punto tutti sono contenti, no? Ma certo che sono strani questi delitti. Tu gli mandi una dichiarazione di guerra e loro ci vedono un trattato di pace. Beh, pace è una parola grossa. In azienda la pace è una chimera. Qui al massimo si può puntare a brevi periodi di tregua. E a ernia iadale se plaga. Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3Z2O 1T.